Mentre il numero di attualmente positivi scende ancora, cresce quello di guariti e dimessi e resta stabile il numero delle vittime, i riflettori sono tutti sulla cosiddetta fase 2. Le differenze regionali, che prima sembravano escluse, ritornano. C'è una certa confusione sugli aspetti sanitari, dai test sierologici ai tamponi, passando per la famosa app di tracciamento, mentre si polemizza sulle mascherine. Alla luce di tutto questo si acutizzano le tensioni nella maggioranza, con un Conte che pare sotto attacco, in ore nelle quali, anche per questi motivi, l'agenzia di rating Fitch ci ha tagliato il rating a sorpresa, senza aspettare l'aggiornamento previsto a luglio. Il Tesoro replica che i fondamentali dell'Italia sono buoni. Il resto d'Europa, in Germania tornano a salire i contagi, ma le preoccupazioni del governo tedesco sono limitate, anche perché il sistema sanitario vanta una percentuale molto alta di posti in terapia intensiva. In Francia il premier delinea la strategia: 700.000 test sierologici a settimana, riapertura delle scuole su base territoriale, graduale per classi di età, e l'essere pronti a tornare indietro se necessario. E poi sì, il ponte di Genova, simbolico il completamento ieri dell'ultimo tratto, molta retorica nei discorsi, ma una certezza: le cose si possono fare e in tempi decenti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questo mercoledì 29 aprile sono le 6:31 minuti, inizia una nuova puntata di 24 Mattino con Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in assistenza e in redazione insieme a Giorgio De Luca, la task force di questa mattina. Partiamo come sempre in questi giorni con i Rolling Stones e con la loro nuova canzone dedicata proprio a Covid. Parla di città fantasma, città che si apprestano a diventarlo un po' meno. Ah, e siete voi la nostra task force, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. La vostra voce, fatemela sentire, dai dai. Siamo anche in diretta su Facebook come sempre. Dunque, questa fase 2 che tante polemiche suscita, che, come diciamo, riacutizza le tensioni politiche, con un Conte che si sente decisamente sotto attacco. Conte che sulla ripartenza dice: non possiamo permetterci l'avventatezza. Abbiamo seguito sin qui un metodo, un programma molto chiaro, abbiamo preso delle decisioni con coraggio e anche responsabilità. Non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza, con improvvisazione. Il rischio lo corriamo, dice Conte, ma è un rischio calcolato. Abbiamo fatto qualche passo avanti, qualche passettino avanti. Per qualcuno non è sufficiente, però non possiamo in questo momento fare di più. Affrontiamo un rischio, ma con questo programma, con questo progetto, che ha una base scientifica, è un rischio calcolato. Ma calcolato come? Calcolato come? Perché c'è un grande tema dei numeri, Non è che ce ne siamo dimenticati, ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, però come li stiamo facendo i calcoli? Ne parla per esempio uno che non è che uno che ha poco da dire, perché è l'uomo che ha delineato la strategia del Veneto nella gestione di questa crisi. Veneto, che è quello che è uno tra quelli che sta andando meglio, è il professor Crisanti. Io sono favorevole che le attività economiche riprendano, ma sono anche preoccupato che non c'è una corretta analisi dei rischi. E poi, abbia pazienza, se si percepisce che c'è un rischio a far aprire i ristoranti prima, ma perché non si percepisce che c'è un rischio diverso regione per regione? Cioè, io penso che queste decisioni sono prese senza numeri e quindi se sono presi senza numeri, sono presi senza l'ausilio di evidenze scientifiche. Ed è la stessa cosa che lamenta il sindaco di Milano, Beppe Sala, che dice: sono un manager, sono abituato a ragionare sui numeri. Ci sono, a Milano si contano 1000 morti e si contano 7000 contagiati. Sulla base delle percentuali di mortalità che ci vengono indicate per Covid, a me dice sembra evidente che i numeri dei contagi a Milano sono altri. Sentiamo Sala. Io voglio con voi essere trasparente, diretto, sincero, voglio coinvolgervi nel percorso che intraprenderemo, vorrei avere elementi oggettivi, per cui continuerò a fare quello che faccio. Vi prometto la mia massima attenzione, vi prometto che al di là delle tabelline continuerò a chiamare medici e pronto soccorso, medici di base negli ospedali per essere certo che il livello di rischio che ci prendiamo è gestibile, e vi chiamo un'altra volta alla vostra responsabilità. Io mi fido dei milanesi. Flavia Perina scrive per l'inchiesta, buongiorno, per buongiorno. La stampa. Ciao Flavia, come stai? Buongiorno, eccoci. Molto ecco. Bene. È un po' che non ci sentiamo. Ascolta, qua c'è un tema, no? Adesso poi i giornali italiani oggi parlano di marcia indietro del governo francese, però non per portare sempre l'esempio, no, non per fare gli esterofili, però ieri il premier francese si è presentato in Parlamento e ha delineato una strategia di massima, ammettendo con umiltà, dice, potremmo tornare indietro nel caso che i numeri non ci dovessero dare ragione, e però l'11 maggio riapriremo così, in alcuni punti su base territoriale, faremo 700.000 sierologici a settimana e via dicendo. Insomma, l'impressione è che un po' questo punto generale, per così dire, in quello che nelle notizie abbiamo dal governo sia mancato. Ma probabilmente ha ragione, avete mandato in onda poco fa questo professor Crisanti, tutto quello che sta succedendo è figlio di una scelta, cioè la scelta di usare lo stesso criterio su tutto il territorio italiano, quando noi sappiamo benissimo che ci sono alcune aree del paese dove il contagio è ancora molto alto e altre aree dove invece da settimane si registrano pochissimi contagi, meno di 100, in qualche caso meno di 30. Però la scelta di usare lo stesso criterio per tutta Italia è quella che ci ha portato ovviamente a regolare il rischio sulle zone dove il rischio è più alto e dove oggettivamente è difficile immaginare in Lombardia o a Milano un liberi tutti o una riapertura delle scuole o dei ristoranti. Sì, tra l'altro anche su questo il governo sta facendo qualche passo indietro, no? Dopo aver detto partiamo su tutto il territorio nazionale, ieri le dichiarazioni del ministro Boccia, il ministro degli affari regionali, erano improntate a misure diverse, dice no, ma magari al 18 maggio invece partiamo differenziati tra regione e regione, insomma anche qua non è chiarissimo. Tra l'altro oggi in questi giorni il Veneto parte con delle ordinanze che sono molto più lasche, no? Rispetto alle previsioni dell'esecutivo, anche qua ci si muove oscillando senza una precisa strategia nazionale, conseguentemente le regioni si muovono un po' per conto loro. Beh, ma è difficile avere una strategia nazionale quando la sanità in Italia è regionalizzata e quindi anche nelle possibilità di reazione al virus c'è un enorme dislivello. Se per caso arrivassero livelli di epidemia come quelli che sono visti al nord in alcune regioni del sud, sarebbe la catastrofe, perché là l'organizzazione sanitaria in tante zone, ci sono regioni come la Calabria dove la sanità è stata commissariata per 15 anni. Quindi io capisco da un lato le difficoltà del governo, capisco meno, forse si sarebbe dovuto fare davvero un ragionamento per aree geografiche. Ma un ragionamento per aree geografiche sarebbe stato punitivo sicuramente in questo momento per il nord, che è il grande polmone economico del paese. È una scelta complicata sicuramente, è una scelta non facile ovviamente. A proposito, recuperiamo il Presidente del Consiglio, Conte, a proposito di attività economiche. Grande tema in questo momento, conficio Fitch, che tra l'altro ci ha abbassato il rating. A questo punto siamo a un gradino dal livello spazzatura delle nostre obbligazioni, dal livello junk, sia per Fitch che per Moody's, mentre Standard & Poor's, con Standard & Poor's mancano due gradini. La situazione economica, le risposte alle categorie sociali, tra l'altro ne parleremo proprio tra un attimo. Sentiamo Conte su questo, va? Le sofferenze sono tali e sono così diffuse che è difficile rispondere a tutte le richieste, ma sicuramente cercheremo di intervenire in modo serio, in modo sostanzioso e incisivo per la gran parte delle fasce sociali, delle categorie professionali che sono in difficoltà. E poi dice questa frase sulle banche, poi mi dite che sono contro Conte, sono contro il governo, no, ma, però insomma, non so, è un po' perplesso, lo sono, via. È un atto d'amore che chiedo anche al mondo bancario, per l'Italia, per i cittadini italiani, per le imprese. Adoperatevi, il governo c'è, se ci sono dei problemi applicativi ditecelo, siamo disponibili a un incontro quanto rapido possibile, dobbiamo risolvere tutti i problemi, dobbiamo consentire alle imprese di poter disporre di finanziamenti per andare avanti. Un atto d'amore, Flavia. Non Beh, so. Questo sì, no, là nel linguaggio ci sono dei problemi, sicuramente, diciamocelo. Sì. Perché chiedere un atto d'amore alle banche, anche nel migliore dei mondi possibili, sembra un po' spropositato. Di sicuro c'è stato anche un grande problema di comunicazione per il governo in questo passaggio. Sì. Sono state usate delle parole, delle espressioni, la famosa questione dei congiunti, insomma, c'è stato qualche cosa che non ha funzionato. Ma soprattutto, secondo me, al nocciolo di questa vicenda c'è la mancanza di fiducia dei cittadini. Gli altri paesi hanno sicuramente messo in campo più risorse, magari hanno sistemi sanitari più efficienti, però hanno fatto anche un atto di fiducia nelle persone. Hanno detto: tenete il distanziamento, mettete le mascherine, state attenti, è pericoloso, e vediamo che succede. In Italia si stenta a fare questo atto di fiducia. Secondo me c'è un po' la convinzione che gli italiani non sarebbero capaci di autogestirsi, di autoregolarsi, mentre invece io credo che il lockdown ha dimostrato una obbedienza alle regole quasi svizzera, quindi forse un pochino di più ci si potrebbe fidare dei cittadini e magari invece nei confronti delle banche usare delle misure un po' più stringenti dell'atto d'amore. Sì, dell'atto d'amore, tra l'altro, per esempio semplificare alcuni meccanismi. Le stesse banche lo chiedono dal punto di vista normativo, hanno detto intervenite dal punto di vista normativo, se no la rapidità di erogazione dei prestiti non può essere quella che richiedete. L'atto d'amore, quindi affetti stabili, atto d'amore, insomma c'è tutto questo clima affettivo che continua a circolare e che non circola invece all'interno della maggioranza, perché le tensioni si fanno sentire, sono forti. In questo paradosso viene ben sottolineato per esempio oggi da Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, nel quale ti trovi un Berlusconi che ieri, ospite da noi tra l'altro alle 8:20, no, mio e di Maria Latella, dice questo non è un momento nel quale sostanzialmente far cadere il governo, lo dice in pratica, anche se dice no, l'appoggio esterno non lo do, per carità. E dall'altra parte un pezzo della maggioranza, Flavia, che è Renzi, che invece no, mette pressione, continua a mettere pressione costante su Conte. Beh, guarda, adesso ognuno sta scegliendo un ruolo per la fase della riapertura, quando riaprirà la politica, il Parlamento, quando si ricomincerà a parlare di elezioni, le elezioni regionali. Erano 7 tornate molto importanti, sono state sospese, ma prima o poi si andrà a votare. Quindi ognuno si sta scegliendo la sua parte in commedia. Chi punta sulla responsabilità e chi punta a cavalcare le inevitabili rabbie, tensioni sociali che usciranno fuori dalla oggettiva crisi che ci sarà, che si manifesterà a breve anche in termini reali, perché non c'è dubbio, al di là delle misure, che questo virus, questa epidemia metterà in ginocchio larga parte dei settori produttivi italiani, a cominciare dal commercio e soprattutto dal piccolo commercio. Le cifre sulle chiusure degli esercizi sono impressionanti e quindi c'è chi sceglie per il futuro una direzione e chi vede in tutto questo un'opportunità di conquistare nuove fasce di consenso elettorale, certo, di visibilità. Certo, tanto che Giorgia Meloni, rispettando le distanze, facendo insomma tutto quello che si deve fare, va in piazza, manifesta insieme a alcune delle categorie, insieme ad alcuni parlamentari. Sentiamola, va. Non siamo d'accordo su molte cose, ma siamo pronti a fare la nostra parte, perché noi non siamo qui solo per dire che non siamo d'accordo. Ognuna, per ognuna di queste categorie noi abbiamo fatto una proposta. Il punto è che non c'è un luogo dove discuterlo. Invece noi vogliamo fare la nostra parte, noi vogliamo dare una mano, non al governo, ma agli italiani, a questi italiani e a tanti altri. Ma il Parlamento non decide niente. Qui ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono della libertà, del destino, dei diritti fondamentali di milioni di persone, ed è tutto normale. E il Parlamento non vota su nulla, la fase 2 si deve votare in Parlamento. Noi la vogliamo discutere e votare in Parlamento, e penso che il Parlamento forse sarebbe più ragionevole su tante questioni. E Matteo Salvini, che al vedere questa manifestazione di piazza, ovviamente, con tutte le limitazioni della Meloni, reagisce così. Come si risolvono i problemi? Ovviamente non andando a manifestare per un quarto d'ora in piazza, lo dico alla politica, massimo rispetto invece per i cittadini che si stanno organizzando ovunque, da nord a sud, mi arrivano su questa pagina e li valorizzeremo in Parlamento, porteremo in Parlamento nelle prossime ore tutti voi. Insomma, non si va in piazza, cioè i problemi non si risolvono andando in piazza. Anche qua, Flavia, no? Le tensioni tra alleati che ritornano, è un po' la fase 2 della politica, cioè il ritorno alla normalità. No, questa è la fase 3 del centrodestra. Ah, ok. Ognuno va per conto suo. Ah, ok. Sì, la verità è che Matteo Salvini ieri mattina aveva sollecitato una protesta di piazza. Giorgia Meloni aveva detto che la protesta di piazza non serviva a niente ed era anche pericolosa per l'incolumità di chi avrebbe partecipato. Poi l'ha organizzata lei invece nel primo pomeriggio insieme con i parlamentari, i senatori e molti consiglieri anche regionali di Fratelli d'Italia. Quindi si è proprio aperta una spaccatura, insomma una crisi importante all'interno del centrodestra, dove ciascuno dei tre soci ha una posizione differente riguardo alla crisi, e si è aperta, secondo me, in modo molto superiore che in passato, la competizione tra Salvini e Giorgia Meloni per la leadership del centrodestra. Sì, con Salvini che a quanto pare anche una competizione interna, quindi non facile la situazione del leader leghista in questo momento. No, è complicata un po' perché i sondaggi scendono, il lockdown gli ha tolto visibilità, ma soprattutto è complicata perché nella vicenda degli immigrati, che è quella che ha consegnato il grande successo a Salvini portava un'idea, facciamo così, anche se era un facciamo così che a mezza Italia non piaceva, però chiudiamo i porti, fermiamo le navi e tutto. In questa circostanza Salvini non ha trovato una linea altrettanto chiara, ha un po' girovagato tra chiudiamo tutto, apriamo tutto, sì, serve più severità contro il virus, serve più libertà per far ripartire l'economia, quindi non ha saputo indicare una di quelle soluzioni facili che prima gli venivano bene. Traffico. Mattino. Se i parrucchieri riuscissero a applicare delle, diciamo, misure di contenimento con degli appuntamenti fissati bene, dove non c'è sovrapposizione, non c'è attesa, io non vedo per quale motivo non si possa ritornare a lavorare anche con persone che sono meno a rischio di infettarsi. Vuol dire che mia mamma dal parrucchiere ci andrà una volta ogni 2 settimane invece che più spesso. Mi dispiace, mamma. A parlare non è una categoria interessata, non è insomma una rappresentante dei parrucchieri, ma una virologa, Ilaria Capua. Quindi insomma un parere scientifico. Buongiorno Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei. Una delle tante associazioni che in questo momento ha a che dire, no? Con come si sta organizzando questa fase 2. quali, il vostro settore è variegato ovviamente, comprende tante, no, comprende tanti elementi, alcuni riapriranno già il 4 maggio suppongo, altri non riapriranno prima del 2 giugno eccetera eccetera, ci dà un'idea di quello che chiedete? Beh, noi ci saremmo aspettati, legittimamente sottolineo, che in questa fase 2 che abbiamo avuto parecchie settimane per programmare, ci fosse, come più volte annunciato, la sostanziale ripresa, avendo capito tutti insieme, credo noi italiani, che non era più possibile pensare nei termini come l'abbiamo pensata per un mese più, cioè che ci fosse un prima e un dopo, abbiamo sperato fosse così, ci fosse un dopo dove si potesse poi ripartire con tranquillità. Abbiamo scoperto che dobbiamo fare i conti con un durante che sarà lungo. Allora, proprio per questa ragione, siccome bisogna attrezzarsi a fare i conti con un durante lungo, ci siamo preparati anche con un'analisi dentro le attività che fanno capo alle tantissime piccole imprese, con il superamento di quelle che sono le criticità, e cioè ci hanno insegnato gli epidemiologi in queste settimane che la regola numero uno è il distanziamento sociale. Quando non è possibile, tutte le tecniche per attenuarlo, le mascherine, gli altri dispositivi di protezione individuale, ecco, questi sono i cardini sui quali è basato anche il protocollo che insieme alle altre associazioni territoriali abbiamo firmato, il primo del 14 di marzo, quello successivo del 24 di aprile, proprio perché ci sono queste regole, proprio perché abbiamo preparato di fare i conti con una convivenza con la circolazione del virus che andrà ridotta al minimo possibile per l'esposizione ai rischi, non si capisce perché questi due settori che restano chiusi, adesso voglio ricordare che diventano attivi dal prossimo 4 maggio sostanzialmente 3,6 milioni di imprese totali, che sono l'80%, con quasi 14 milioni di addetti, quindi tra quelli che sono rimasti sempre attivi, quelli che si sono aggiunti, quelli che si aggiungeranno con le deroghe con i prefetti, ecco, è veramente una penalizzazione per questi settori accanto a quelli Fumagalli, altri della... Fumagalli, mi scusi, ma l'ipotesi, dato che, come ci scrive qualche ascoltatore giustamente, l'epidemia e il contagio sono ancora vivi e vegeti, no? E quindi con questo noi dobbiamo fare i conti, è vero il distanziamento sociale, via dicendo, è vero anche che poi, insomma, stabilire e avere un controllo su tutto il territorio può diventare difficile, posto che i posti in terapia intensiva, per esempio, sono ancora quello che sono e anzi, come ci dicono i giornali oggi, stanno diminuendo. Un'apertura su base territoriale forse è la via che si potrebbe prendere, posto che chiaramente escludi pezzi importanti di questo paese, anzi fondamentali come la Lombardia, però si potrebbe pensare a qualcosa di questo genere. Guardi, non siamo in linea di principio contrari, però mi si deve rispondere all'obiezione che facciamo noi, diciamo, ma è possibile che riattivare 15 milioni di addetti si concentri il rischio negli altri che resteranno penalizzati e fermi? Io credo proprio di no. C'è più rischio a stare su un mezzo di trasporto pubblico o andare dal parrucchiere su appuntamento o andare presso una gastronomia per fare semplicemente asporto? C'è più rischio a stare in coda al supermercato? C'è più rischio a stare in coda per andare in una gelateria? Ecco, se ci si risponde con ragioni scientifiche su queste diversità di rischi, ci arrendiamo, ma mi pare ormai assodato che c'è un'evidenza che qui non c'è un maggior rischio tale da giustificare una condanna economica per decine di migliaia di imprese. È il grande tema e molte presumibilmente non riapriranno, Fumagalli, credo. Ma noi facciamo conto sulle parole che il Presidente del Consiglio ha anche detto, che in ragione del valutazioni anche successive a questa sua per ora una dichiarazione, per ora il DPCM sì. limita la sua portata al 17 di maggio, confidiamo che dopo il 17 di maggio ci sia il 18 come tempo utile per il ripensamento e per non condannare senza appello piccole imprese che sono già state messe in gravissima difficoltà. Ripeto, questi sono settori che per sì. primi sono partiti nel lockdown e per ultimi ne uscirebbero. Sì, sì, come ci dice, continua sempre gli ascoltatori, ascoltatrici, forse la stessa ascoltatrice, dice per me la quantità di persone si potranno muovere, certo che però se lo fai su prenotazione, eccetera, eccetera, forse qualcosa da questo punto di vista si può pensare a gestire. Allora, la ringrazio intanto, grazie a Cesare Fumagalli, ma Flavia Perina ce l'abbiamo ancora? No, non ce l'abbiamo più, va bene, va bene. Voglio portarvi su un altro fronte. Che ieri c'è stata una polemica perché il commissario del governo, quello agli approvvigionamenti, Domenico Arcuri, cosa ha fatto? Ha fissato il prezzo delle mascherine a 50 centesimi di euro, perché nei prossimi giorni dovremo, insomma, naturalmente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, dovremo averle tutti, indossare tutti questi dispositivi di protezione. Ci sono state delle contestazioni a questa decisione, cioè qualcuno ha detto: ragazzi, ma se le mascherine al momento costano di più, come si fa a fissare un prezzo a 50 centesimi? E Arcuri ha innescato una polemica con quelli che chiama i liberisti da divano. Anche se avrei tanta voglia di parlare dalla trincea nella quale con i miei colleghi, con il dottor Borrelli e con la Protezione Civile mi trovo da 40 giorni. Avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che dai loro divani, tra un cocktail e un videomessaggio, emettono sentenze quotidiane, ma non lo farò. Però di fatto lo fa, parla anche dei liberisti da centrifugato. Il prezzo lo fa il mercato, dicono i liberisti, dopo aver sorseggiato i loro centrifugati. Lo fa l'incontro della domanda e dell'offerta, aggiungono quelli tra loro che sono più acculturati. E hanno ragione. Certo che il prezzo lo fa il mercato. Certo che lo fa l'incontro tra la domanda e l'offerta, se il mercato ci fosse. Se avesse una struttura dell'offerta consolidata e ampia come quella della domanda. Però, insomma, non dobbiamo ricordare noi al commissario Arcuri che ci sono almeno un centinaio di aziende che su incentivo del governo hanno deciso di riconvertire la produzione esattamente in mascherine e dispositivi di protezione, richiamando operai in servizio e che adesso si trovano con questi prezzi fuori mercato, perché il problema è quello, non sono i liberisti da divano. Il problema è anche ricordare che cosa ci disse Arcuri più di un mese fa. Da lunedì o al più tardi da martedì tutte le regioni italiane avranno le mascherine che servono per la parte più critica di questa emergenza. I medici, gli operatori sanitari, i malati e quant'altro si gira intorno a questo dramma. A partire dalla settimana successiva noi contiamo di poter dare a tutti gli italiani che ne hanno bisogno un dispositivo di protezione individuale. Era il 22 di marzo, queste parole di Arcuri erano del 22 di marzo, di un mese e passa fa. No, più che altro forse sarebbe meglio che in questa situazione si evitassero polemiche. Teniamoci calmi e tranquilli, che è meglio. Ci sentiamo dopo GR24 con la rassegna stampa e con Paolo Mieli. A dopo.